Europa 24. Un buon pomeriggio da Gigi Donelli. La prima notizia di oggi è un numero: 160 miliardi. Sono i numeri, sono gli euro persi sull'IVA in Europa, di cui 36,8 miliardi in Italia. Queste le cifre sulle entrate non riscosse dall'imposta sul valore aggiunto nel 2014, calcolate dalla Commissione europea. Il divario dell'IVA varia da, con un picco di mancata riscossione del 37,9% in Romania, ad un minimo dell'1,2% in Svezia. In cifre assolute il divario più alto dell'IVA è però quello registrato in Italia, 36,9 miliardi di euro, con un'incidenza calata al 27,55% dal 29,8%. Questo era il 2013. Dopo questa notizia, il grande tema di oggi è ancora quello delle politiche migratorie e voto nel Mecklenburgo, negativo per Angela Merkel, probabilmente per una certa idea dell'Europa dell'accoglienza. Allora sentiamo il servizio di Valentina Forlanetto, seguito da quello di Chiara Piselli, sulla situazione dei minori. Bruxelles prova a minimizzare sull'impatto che il boom della destra xenofoba alle elezioni di Mecklenburgo potrebbe avere sulla politica migratoria dell'Unione, ma è ancora difficile prevedere quali saranno gli effetti della debacle di Angela Merkel, fino ad oggi sponsor convinta delle proposte della Commissione sui profughi, mentre l'Unione si prepara ad affrontare mesi difficili a partire dal doppio appuntamento del 2 ottobre col referendum ungherese sulla ridistribuzione europea delle quote obbligatorie di profughi e il remake delle presidenziali in Austria. Il portavoce della Commissione europea, Alexander Wittestein, ha detto che il voto in Germania non indebolisce la politica di solidarietà. Tutto questo avviene il giorno dopo le proteste dei cittadini di Calais per la cosiddetta giungla dei migranti, che ormai ha raggiunto 10.000 presenze, e nel giorno in cui un contingente di 50 poliziotti della Repubblica Ceca è arrivato in Ungheria, dove andrà a rafforzare il dispositivo di controllo e sicurezza alla frontiera con la Serbia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I diritti dei bambini al centro dell'agenda europea sulla migrazione. Questo è il tema della tavola rotonda di Save the Children, organizzata pochi giorni dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su flussi di migranti e rifugiati. Un incontro internazionale in cui istituzioni italiane ed europee si confrontano sulle strategie utili ad affermare l'interesse superiore dei bambini, per mettere in campo con urgenza misure a tutela di tutti i minori che ogni giorno affrontano viaggi pericolosi, anche da soli, per raggiungere l'Europa, per fuggire da guerre, violenze e povertà. Nodi cruciali sono dunque ricerca e salvataggio in mare, accoglienza e protezione e rischio di violenza e sfruttamento. L'appello di Maria Egizia Petruccione, responsabile advocacy internazionale di Save the Children. Chiediamo all'Unione Europea e agli Stati membri di mettere in piedi un piano di azione specifico per i minori migranti, che li metta al centro delle attività e delle politiche europee di protezione e di asilo. L'Unione Europea e gli Stati hanno degli obblighi legali previsti dal diritto internazionale che devono rispettare. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per la nostra pagina europea. Ora lo spazio va naturalmente a tutti i convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.